bisogna provare col glucosio, l'ha provato col glucosio, roba da nausea brutto, bicchierone di glucosio schifoso, buah. Il bagno insomma non se ne è farato. Per vedere se nelle due ore comincia a abbassarsi, no? Per vedere se ce la so. Infatti io diabete non ne avevo e già mi è salita perché mi avevano fatto bere il glucosio, però da poi mi è farata, compreso? E mi ha detto sì, lei non ne ha diabete, però deve stare attento perché lei è predisposto. E questa è la prima volta che ti avevo detto così, già me lo ricordo, ma poi ti avevo trovato tutto il diabete. Avanti Toro, buonasera, andiamo bene, andiamo. È più bello così. Topoli, buonasera. Ah, mi devi dire una cosa, a chi sei così basso? Ah, del radio. Non nasce qui, ma io, mamma mi ha fatto basso, cosa mi posso fare? Mammi, mi chiamo mi pongo di pietra moglie, per salongo. Perché c'è l'uomo locale. Cosa c'è? Non ho capito, cosa c'è? L'uomo locale c'è, l'uomo locale, buco, come ti dici? E se va il monogatto è ma catta, ma sei così basso? Basso basso, lo intendo. Mi chiama me lo tumba la chio che c'è per il radio, che c'è un monocane. Perché da cane questo baracchino, quel forma era omologato e il 3009 purtroppo mi si è rotto e non ne ho adesso. Io sono così sicuro che se non regali il suo baracchino di Rodora via da Rito. È minimo che l'abbia durato in dare 2-5, ma te l'arrivi da via provato, se non l'hai fatto a bestia, adesso te lo Rodorro. E qui me l'ha venduto che è così, però l'hanno manomesso e gliel'hanno restituito, l'ha venduto per nuovo a me, però che ho detto una portante va a passare 9:30. Pure una portante mi pone gastroso qui, vado via un baracchino dell'auto e mettono pure la portante. A me si passa tutto, ma liscio però. Infatti, ma se ne ha bizzato che si è riuscito a passare. Non so che ti dica. Non ci posso fare nulla. A nessuno tratta niente. L'importante è che questo baracchino non si è andato a passare. Perché quello omologato ma io c'è una buona affare a portante che non ho passi mi fa zerri di giù oh cosu guarda che non passi vuoi pure la portante che vuoi ma non passi è la che ti viene a pugnare ma qui mi cavano QRM intendi la voce bella mia e tu c'è cazzo che non posso attaccare il microfono per il peccato qua perché magari manco me l'accetta questo cazzo di baracchino. Ma ui, schietta che andiamo. Vabbè, sarà così, dai, vabbè. Ci ho levato una pena al volume, che andiamo a Gianni da basso. Che vado così. Infatti. Avanti, con il manato davvero, non ne ho baracchino, sono questo pistolo. Anzi no, c'ho 23 canali, mi pare che è gratuito su questo. Io che da voi si venire a controllarmi, ma c'è panichi si attaccate e mi distruggono. Gianni, pure a me la è ordinata. E cosa, la pizza? Sì. Certo, lo sai che ho mangiato le fave io. E la grigia mia invece da fame si è abbassata. Ah, vero? E allora me ne si è più va. Vero, mi. Certo, mi sono fatto dopo di un paio d'ore. Cosa la grigia mia? Invece da fame si è abbassata. Siete sovramodulati, ma passa vita. C'è anche i funghi da far abbassare la glicemia. Ah, vero? Ma però dico i funghi di non mangiarne più di tanto, che sono una muffa e se ne mangi tanto fanno male. Ma cosa vuoi ti dica io? Quando mi capisce io rimango, da voi? Oggi per esempio ci ho mangiato minestra e ha pigliato un pezzo di chissà ricotta e me l'ha giovata, minestra di ricotta ci ho aggiunto un po' di pepe e tira che è lunga. E mangia anche la ricotta con la fa salire mia. Io me la sono fatta un sacco di volte, la mangio, dopo di due ore me la controllo e ce l'ho sempre la stessa. Io l'ho mangiata tranquillo, non mi ha fatto nulla. Anche io ci proprio mi dai mi dico, mi sorrendo, la glicemia e non mi ha fatto nulla. Sì, siamo due gaccia a fermo, secondo me. Beh, andiamo dove andiamo? Andiamo bene. Cosa faccio a Fugiasini e Mania? Dirai io, ma con i suoi non ci fermo più. Cazzo. Mangiamo questo che si capiteggia e ci diamo la pasta gioia. Quando moriamo si cercavano. Sì, l'unica cosa che ti ha fatto di più sono i calamari. Dici sì. Dici che ti ha fatto non i calamari, se vai invece sì. Il fritto infatti è il fritto che te lo fa salire. Ma dicevi, già non mi occupo più mai niente i calamari e mi piace la macchina. Ah, io ho fatto di tutto per non vederli. A chi ci rivengo, arrivederci. Già siamo molti vedi Salvatore. Certo, dopo. Infatti l'animale me l'ha misurata. Ho preso il tè. Ancora 4 pezzi di biscottate. Dopo di coso. La misura ce l'avevo normale. Ce l'avevo. Ah, detto che andiamo così. Prima di pranzo a 90, vira via. Io mi mangio il cappellato e 2 fette biscottate a colazione. 2 solo però mi. No, io sono mi vado di avanza, mi vado di là. A me vado a cusci. Mi vado in un tempo. Purtroppo è così, non si può fare nulla. A me mi ne vorrei cavare con l'insulina che sei nei vostri la notte. E fa cosa già usata malattia della pancreatite, mi ha detto lasciamola quella, se no gli devo ordinare un'altra pastiglia, già ne sta pigliando troppe. Cazzo mi viene in mezzo pastiglie, ma chi so che non mi era cavata, chissà, se no me ne aveva cavata mi sa di la notte, non aveva più l'insulina. Però al posto dell'insulina sto prendendo la pastiglia che mi dura tutto il giorno. No, io ho la pastiglia gialla che ce l'ho la mattina e la notte ce l'ho. Poi ne ho 2, una per il cuore e una per la circolazione alle 8 del mattino e una alle 8 di sera. Sempre la circolazione e una per il cuore. E poi c'è quella del colesterolo la notte. Insomma, io siamo tutti bene a medicinali. Infatti mia volta che anda per morire per gli faccio la borsa di attesa. Aspetta, se Arimani mi ha fatto il maggioritiato, ho 2 Arimani e una oggi. Io che se di me figliura, pensa un po' con un naggio. E purtroppo siamo destinati a essere così, consumare pastiglie. Vorremmo campacci. E quindi andiamo a dare una zappacchia, cosa vi ti dica? Quando arriviamo a un certo punto, se vendemmo. E io dico sempre, mica ando poi come si cavano. Sempre più lontano possibile. E lo senza ombra di dubbio. Più che altro di cosa vuoi fare? Ma 70 avviso che arrivi, no? Dove arrivi a 3 anni a 3 mesi, ora manca 80, lasciamo arrivi. Sì, e io sono giovane, è quello che mi frega. Gatta, sono 65 anni io. E gatta, e sono trazione, anzi tre. Cazzo. Fate così, facciamo così, facciamo. Andiamo avanti così. Gianni! Cosa ti sei addormentato? No, deve essere parato con un cane. Scusate mia, che ora va? E non ho avuto il tempo da vedere, magari. Come fai a Giaudo a Tonino, a Giaudo, al supermercato? Umane questo tovel squalo, boh, non mi saluta nemmeno, entra, non mi saluta, boh. Ma che te giudaggio, ma che te giudaggio? Non ti ho sentito neanche parlare, pensa un poco. E poi quocomane sarai tu, non io. E buonasera, avanza. Boh, a te io mi ha detto che sei quocomane, boh. Gianni, hai inteso cosa mi ha detto quocomane a me? E io ti dico cucumaru. Citriolino. Ma è tu da Tarino, sta attento a tua scuola che può comare. Ma non li so qui, boh. Ma Tarino no, sta vedendo, che non manco l'intendi tu. No, la Tarino mi ha detto, ma c'è un altro telefono, lui sta attento a fattore, tua scuola che può comare. Ma non li so qui, boh. Caro Cantacchi, su Luca che può comare voce, da fatto. Due può comare, questo io sono andato rinfiato nel braccio. Ma intendi, vedi che verrà con te, no con me. Sempre con me così la piglia mi frusca. Sempre con me se la piglia. Perché lui ha appena meno di più. Sarà appena il più alto, ecco cos'è. Se ne approfitta benissimo. Perché io sono piccolo e nero e lui se ne approfitta. Allora, e che sono fatto? Andiamo bene. Avanti Luca. Ciao. Dizemi, se tu mangiai una giaudo a Torino, a giaudo. L'hai trovato? Al supermercato, se non vedi cosa ci ha pigliato. Dimmi lo tu, cosa mi dici? So cosa sta reggio, ma indovina che sono tutto, no? Una baguette, gaza, con una mortadella. E chi si è rubato il Torino, io? Tu ce la mangio io, chissà, mi sa che a 250 la glicemia. Ma chi è tu no? E tu pure non mi no, cosa ti credi? E tu pure non ne puoi mangiarmi queste cose. Aspetta, pensa un poco. Cosa che due cani da vitale, queste cose da me le faccio vedere. Ma che se lo porti una foccia. E se no una voce ero a dieta io lo salvato, ma te racconto. Entrava Graziano, entrava, no? Ed è di che cucinava tutti questi magnaboni, ed era a dieta, non ne vuole. E dice, mi rubasi appunto a provocarmi, Graziano. No, vero, io buro, fa sempre delle cose. Allora, abbiamo c'è un babbo canale. Oggi però, non lo voglio mai che intendi. Aspetta, già sono gomari, e ho chiesto, era ancora vecchio. Ma adesso che è andato a casa Gioia, e la gente era moglie. Io non fa vedere più così, cata, che mi fa già entrare, mi piacere che ti un coso, già ero buruevo a dieta. E chi ti fa vedere la pace? Ma ho che sei buffonelli. Ma non ne di più, cata, che sei così per questa. Ma che mi fa venire in mare? Cazzo, io che la dieta più mi provocava, chi cazzo, mi lo mandi a buccia. Diciamo, se così mi ero visto, mi mandi a tutta la ragione, apposta me lo faceva. Una di ragione da sa di frequenza. Altaggio Maria, passa Rubin Tedre. Allora non c'è da raggiungere. E dai Gisù, non ho capito. Ma Graziano. Allora poi mi dà sopra di mangiare, dice, che battere, eh? C'è stato in noi la dieta. Ma c'è Zimmari, a da voi. Graziano mi piace un bel cucina. Sto sempre parlando di cucina perché mi piace molto. Ma che ho fatto che non ne ha fatto nulla ad avere un diabete. Cioè, se la 324, 300, cosa ne ha fatto? E ha un tipo di Crohn, c'ha diversi disturbi, poverino. Non so, c'è gente che l'ha pensato così, una volta solo si vive, bisogna rigogliarsi. Vabbè che una cliente a me mi ha detto che c'aveva il marito che era diabetico e quando andava a fare le passeggiate a Porto Torres, lei si pigliava il gelato e il marito si le dice, ma io ho pigliato il gelato, e lei, mamma mia, e pigliatelo il gelato, ma chi lo curia è, compreso. E praticamente a lui non glielo prendeva, gli faceva il gelatino come bambini, staccava il pezzo da sotto e glielo riempiva. Dice, se l'avessi saputo già, io allora gli davo il gelato, da lui è giunto un tumore e se ne è andato così, in pochi mesi se ne è andato. E allora che cosa vale fare tutte queste restrizioni e non mangiare la roba? Cosa vale? Che tanto o muori di latte o muori di droga. Infatti è così, tante di volte io la mamma è dovuta, no, anche io sono così, esatto, già giù di mangiare un romagno. A me mi piace a mangiare, l'ha detto. E che non piace a mangiare, è l'unico momento che vai, in tranquillità, quando ti mosi la vacca, con un televisore acceso e via, e attacca, ossia. Già, racconta i gatti sono entrati a Rutteri Sbarra, Salvatore, racconta di chiesto. Quando siamo entrati? Rutteri Sbarra, che stavano facendo commissioni se estrema ci ha fatto a pigliarsi un caffè a Rutteri Sbarra. Mamma mia, lì c'è la tentazione, tu. A Crisma c'è la tentazione, che se c'è una vetrina lunga lunga tutta piena di paste, di tutte le qualità, ma cazzo, una bella vetrina. E io mi stavo attaccando perché a me, cazzo, adesso prima non le cercavo molti dolci, ma adesso che non li posso mangiare, ma lassù si mi attira in un modo allucinante. E Natalino mi ha tirato, che si va, da io che sei diabetico, la sacca che c'ha vetrina e mi ha tirato, anche se no mi mangiavo tutto. Ma che anch'io sono così, quando le vedo le vetrine me la baglio. Ci sto attento e non ne prendo. Ma la tentazione di bere, no, io quando vedo quelle frittelle belle cremose, mamma mia. Lascia pezzo di mezzo. Viene di crema, mi salvato a Gianni. Ci viene a mangiare di gullucci. Io non ero diabetico ancora, mi. E quando si era detto che sei diabetico, tu l'hai giudito. Ogni giorno prende ancora. Sai che quindi non si passa tutta questa cosa. No, forse dei giorni successivi mi tengo a regime. E cosa? Non ti puoi togliere tutto dalla vita, cazzo. Le cose buone noi non le possiamo mangiare, tu lo dici, la roba più buona non la puoi mangiare. Ti dico che un pezzo di duccia quando vai viso al compleanno e cose, un pezzo di duccia me la mangio. Non me ne ha fatto nulla. Fai bene. Io vabbè, per la torta non è che vado matto, mi piace quella a sfuglia, quella di pasta a sfuglia, quella lì sì, ma le altre non è che le mi piacciono di più le paste a me. Le paste ci vado matto, specie se hanno la crema, mamma mia. No, io con la crema un po' ci sto full, però se sono cose di quelle paste che sto dicendo io, ui ui ui. Pensatino, più buona è la roba e più poco ne potevo mangiarlo. Ah, che mi ha trovato un giorno, mi ha trovato il medico, mi ha detto, mi ha trovato. Ma mi ha detto, dice, cosa stiamo facendo? Oggi ti luce il viaggio maturi, cosa gli posso dire? Guardare ma non toccare, lo dice. Ah, così sta facendo. Non vede che sta guardando solo, ma la colina ce l'ho in bocca. Cosa vuole che faccia? Siete sovraccavallati tutti e due, non si è compreso un tubo. Ma che si è accavallato? Io e Gianni? Era il più forte. Non passava nessuno dei due. Andiamo a vedere. Ascolta a me. Un giorno mi ha trovato il diabetologo. Mi ha visto che ero nella vetrina dei dolci. E mi ha fatto, adesso l'ho beccata. E la giocca, beccato di cosa? Guarda che non c'è nulla in mano. Sto solo guardando, c'ho gli occhi, guarda gli occhi, che grandi che ce li ho. Aveva bella delle bassi, anche tu. Ma mi ha fatto guardare ma non toccare. Mi ha fatto. E loro fanno in fretta a dare ordini di questo genere. Lasciami lì. Loro fanno in fretta, tu, per carità di Dio. Loro non devono farne di niente. Da voi si andano al ristorante, mangiano i setti ganasci e si da fuori. Ma io a dare tu metti se ne è andato, ma ci mi dato una bassa, e lei se ne è mandato anche due paesi. Ma tu è, io mi dico che sento malare, dice anche chi c'è matti Natale. Io vi ascolto che sono arrivate le pizze qua. E Natalino era anche pasticcere, se ne succede quando se la muove in pasticceria, guai, io. Invece sono arrivate le pizze, quindi non può farvi dare. Ci ascolta solo. E a bocca piena, a bocca piena. E mi sa che me la ordino anch'io, mi ha fatto un'idea. Mi sa che me la ordino anch'io. Ma io, a me mi piacciono i frutti di mare, no, che non invade. Sono a portatore, se li ho mangiate buone i frutti di mare. E sono freschi, i frutti di mare sono saporiti, hanno sapore del mare. Ma se cocco, ma è con Natalino. Si è fatto la mamma, adesso c'ha fame. Luca, purtroppo dobbiamo stare così. Lui mangia e noi ascoltiamo. Vabbè, sarà tutto così. Ma io già me la faccio anche io quando vado a cosa, a Porto Torre, che a me mi dico io che entriamo in pizzeria e me la prendo lì, me la prendo con i frutti di mare anche io, perché piace anche a me. Con la zuppetta, proprio zuppa di mare si chiama, ci sono arsene, vongole, granchi, di tutti e di più, anche i granchi appesi ci sono, spaccati in due. C'è un adesso che è entrato all'inizio di cose, di Pradanieda, gliel'ho chiesta con i frutti di mare, me l'ha regata con la zuppa di mare. Col sugo, là. Però con i frutti di mare, no con la zuppa. Ha detto, ma scusi, cosa mi ha portato? Una pizza con la zuppa. Io non ne voglio così. Guarda come la vuole. Diversamente, più asciutto di Gozu. Io non volevo una zuppa. Mi ha fatto una zuppetta, mi ha fatto. I frutti di mare sono quelli che si fa l'insalata di mare, no? Col prezzemolo, l'aglio e coso, e sono così in mezzo alla pizza. Però no, con tanto sugo. Con tanto sugo me l'ha fatta, ha detto che adesso me la fa ritornare indietro. Ha detto vabbè, ma me la mangio così, cosa vuoi dire? Però non la pago, non la pago con la zuppetta, perché con la zuppetta è più cara, che ho preso. Ma me l'ha fatta normale. La corsara è quella lì si chiama corsara. E poi c'è anche buona quella, la spadara, quella la fanno a San Gabbino, si chiama spadara, col pesce spada. Un altro gozio mi... Stiamo vedendo, e glielo fa vedere di mangiare, che se no i roghi si vedono a bambi. Racconta a Riattore che mi chiama a me, la corsara a San Gabbino. Cos'è Natali? Senti, a Gianni, raccontati, quando si pigliava me la corsara a San Gabbino, io la fanno buona. Attenzione, su già, ha detto che è andato a ordinarsi la pizza. Vabbè, tutti a mangiarsi la pizza, no? Infatti faccio, allora, fai pensare, una zuppa di latte, con i biscotti, a voglia, una bella cena da campione. Ma che tu te la fai così? E tanto. Era giusinca? No, ma che Certo che nel muovere. Aspetta per esempio Gian Maria nel 23. Raggio già ma danzura e non vira. Beh, mi stai ascoltando, Otto, sì. Luca, Gianni, Nattari, vi devo lasciare perché sono sul 23 con Gio Maria. Scappa là, no problem. Ciao Salvatore, grazie per le controchiacche, alle prossime. Salutami a Gio Maria. Ello, ello, andate, ci risentiamo Nattari, ciao e ciao anche agli altri.